quanti erano i soldati americani al checkpoint? E la macchina con a bordo Calipari, l'autista e Giuliana Sgrena viaggiava realmente a forte velocità? E ancora, quanti colpi sono stati sparati e in quale punto della vettura? Al termine del lavoro le versioni resteranno sempre distanti. Per gli americani l'uccisione di Nicola Calipari sarebbe stata originata da presunte imprudenze degli agenti dei servizi segreti italiani e dalla stessa vittima. Raffaella Calandra intervista Barry Venable, portavoce del Pentagono. È il giorno in cui il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi parla di ritardi dovuti a divergenze all'interno dell'amministrazione americana. Eviterei di commentare le parole del presidente del Consiglio italiano. Sarebbe inappropriato da parte nostra, per cui non posso in alcun modo rispondere alle dichiarazioni del Premier su presunte divergenze all'interno dell'amministrazione americana. Posso solo dire che c'è un solo governo americano. Il segretario alla difesa lavora per il presidente. E per di più, le indagini si stanno svolgendo a Baghdad, non a Washington. In ogni caso, non sono ancora state rese pubbliche. I rappresentanti italiani incontrano limiti e restrizioni, come l'esclusiva applicazione della normativa statunitense Army Regulation, che disciplina procedure e modalità per le inchieste nell'ambito dell'esercito americano. La sera del 4 marzo del 2005 il luogo della sparatoria non viene, come si dice in gergo, congelato, anzi viene ripulito, perfino alterato. Nessun italiano presente a Baghdad riesce a raggiungere quel checkpoint. Neanche successivamente, durante i lavori della commissione congiunta, si è potuto ricostruire la scena del crimine. Le autorità militari americane hanno ritenuto inopportuno anche il sopralluogo notturno. E ancora i bossoli utilizzati dalla pattuglia americana vengono rimossi ed eliminati, le armi manomesse e l'autovettura rientrata in Italia soltanto dopo 2 mesi. Quindi, come dice il generale Franco Angioni, serve soltanto attendere ora il risultato della magistratura italiana. Vedi, il giudizio degli Stati Uniti è di non colpevolezza, la magistratura italiana può ancora procedere. Ma la Procura della Repubblica di Roma trova difficoltà nel rapporto con gli americani. Non conosce i nomi e i cognomi dei soldati presenti al checkpoint. E senza nomi, il fascicolo resta ancora intestato ad ignoti. Forse sarà perfino archiviato. A meno che la forza delle parole di Rosa Calipari possano ancora smuovere il muro di gomma. Nicola ha non solo condotto a termine la sua missione, la liberazione di Giuliana Sgrena, ma ha anche sacrificato la sua vita per proteggerla dal fuoco amico e proprio per rispettare quella bandiera nella quale, tornato avvolto da Baghdad, continuo a chiedere con forza e determinazione la verità su quanto è realmente successo e di far luce sulle responsabilità di coloro che, direttamente o indirettamente, ne hanno causato la morte. Perché non è possibile avere pace se non c'è giustizia.